In Shogun, The Arrogance and the Power, Tin Barrett illustra come nel Giappone medievale l'arroganza fosse il più usato fra gli strumenti di potere. Più del sopruso, scrive, più della riduzione in schiavitù, più del quotidiano sfruttamento, nulla come l'arroganza, intesa come inutile dimostrazione di potere, umilia e frustra le velleità di sollevazione. In uno dei numerosi episodi citati nel libro, Tin Barrett racconta come nel 1333 un latifondista di nome Ashikaga Chikafusa si impadronisca della bella moglie d'un suo mezzadro, il quale per nulla rassegnato tenta di dare vita ad un'insurrezione. Ashikaga Chikafusa si pone di fronte agli insorti e, rivolto al mezzadro, gli dice: «Basta, chiunque può riavere la moglie se lo desidera. Si rechi a Oyo, la capitale, nel Kyushu settentrionale, e la rivendichi ufficialmente presso il funzionario di quel luogo». Il mezzadro non è mai andato oltre la collina, né sa cosa ci sia al di là del suo mondo fatto di campi e di fatica. Dopo un viaggio di 6 mesi, il mezzadro scopre che nel Kyushu settentrionale una città di nome Oyo non esiste. Gli hanno mentito. Al suo ritorno trova gli amici rassegnati e da Ashikaga Chikafusa che lo irride. Un bel esempio dell'arroganza usata come strumento di gestione del potere. La signora Maria ha 67 anni. Chiama il 187 di Telecom Italia, un numero fatto di persone. Le risponde Francesca, una delle persone di cui appunto è fatto il 187. Non sa la signora Maria che Francesca ha a disposizione di cercare di appioppare agli anziani, quindi anche a lei, il maggior numero di servizi supplementari a pagamento possibile. È una politica aziendale. Non sa nemmeno che Francesca ha a disposizione di non dirle che i servizi che sta per sottoscrivere sono a pagamento, se non in caso di esplicita richiesta. Telecom Italia ritiene infatti sufficiente aver allegato alle bollette della signora Maria le pubblicità di quei servizi a pagamento. La signora Maria si lascia convincere da Francesca e sottoscrive alcuni di questi servizi. La sua bolletta telefonica ne risente nella misura di 32.000 lire a bimestre. È il costo di quei servizi supplementari a pagamento. Per lei, che ha solo una pensione sociale, 32.000 lire non sono poche. Decide quindi di chiamare di nuovo il 187, giacché, contrariamente a quanto ritiene Telecom Italia, nonostante le pubblicità allegate alla bolletta, non sa di aver sottoscritto servizi a pagamento. Non le risponde Francesca, questa volta le risponde Chiara, la quale le spiega il motivo di quelle 32.000 lire in più e che se vuole rinunciare a quei servizi deve farne richiesta via fax. Telecom Italia ritiene infatti che servizi cui si aderisce con una semplice telefonata, in alcuni casi, possano essere disdetti solo via fax. E evidentemente Telecom Italia ritiene anche che un fax al giorno d'oggi ce lo hanno proprio tutti. La signora Maria, ancora una volta del tutto inottemperante a quanto ritiene Telecom Italia, non ha un fax, non ha idea di come si debba computare il documento da faxare e la sua edicolante, la signora Bruna, anzi quella ladra della signora Bruna si dovrebbe dire, un fax glielo fa pagare 10.000 lire. La signora Maria decide di recarsi quindi di persona negli uffici di Telecom Italia. Abita a Pieve Emanuele, alle porte di Milano. Area di competenza Telecom, Milano Sud, via Fantoli, zona Mecenate. Per la signora Maria con i mezzi è una vera odissea. L'autobus fino al capolinea del 24, poi tram fino alla circonvallazione, 91 fino a corso 22 marzo e per finire altro tram, il 12. 2 ore e mezza di viaggio. Telecom Italia nel suo settore è ancora monopolista di fatto. Non è una mia affermazione, ma del garante della concorrenza. Un'affermazione che di recente ha convinto l'autorità delle comunicazioni a negare a Telecom Italia l'acquisto di Telemonte Carlo. Nelle motivazioni si legge fra l'altro che non basta eliminare un monopolio legale per porre fine ad una posizione dominante. Il monopolio di Telecom, insomma, va smontato anche nella realtà. La posizione dominante in questione non può non essere letta come una manifestazione del potere. La signora Maria ha ed avrebbe sopportato di tutto quella mattina. Dopo il viaggio interminabile era pronta a superare interminabili code allo sportello, impiegati strafottenti, tutti i litigi e le incomprensioni che sarebbero state necessarie. Quello che non avrebbe mai pensato di dover sopportare era la scena seguente. Via Fantoli, Telecom Italia, Milano Sud. Dove un giorno c'erano gli sportelli, ci sono dei pannelli di cartongesso. Sui pannelli sono appesi dei telefoni. Telefoni da cui, si spiega, è possibile chiamare il 187. Gratis. Da quel posto la signora Maria non può fare altro che rifare ciò che avrebbe potuto fare da casa sua. Da parte di Telecom Italia una inutile dimostrazione di potere, un messaggio chiaro per la signora Maria e per tutti gli altri: il vostro viaggio è inutile, statevene a casa. Un altro esempio, secoli dopo, dell'arroganza con cui può gestire il potere chi questo potere lo detiene. Naturalmente ci dovrebbe essere un limite a questa arroganza. Nella storia di qualche secolo fa, il mezzadro tornato a casa spicca la testa dal collo di Ashikaga Chikafusa con un solo colpo di spada e si riprende la moglie. Nella storia della signora Maria, purtroppo, manca il lieto fine.